Con Raffaele Meale, uno dei curatori dell'ultimo appuntamento del ciclo Percorsi di Cinema dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici. Ciao Raffaele. Ciao, ciao Federico, ciao. Allora, a Roma, la Casa del Cinema, il 5 dicembre, raccontaci tutto. Allora, sì, il 5 dicembre appunto alla Casa del Cinema, ovviamente con ingresso gratuito come sempre alla Casa del Cinema, chiudiamo un ciclo di tre appuntamenti di percorsi di cinema, che è un appuntamento fisso oramai dal 2004 di ANAC, mi è stato chiesto di gestire il secondo anno di seguito di appuntamenti, e quest'anno Percorsi Cinema si occupa di sceneggiatori, degli sceneggiatori che hanno in qualche modo formato l'immaginario del cinema italiano. Abbiamo già avuto modo di fare un incontro sul lavoro, sulla carriera, sulla anche poetica di Leo Benvenuti e Piero De Bernardi. Ne abbiamo fatto un secondo su altri aspetti, quindi sono le due coppie conclamate della storia del nostro cinema. Chiudiamo con un omaggio, un ricordo e un approfondimento su Vincenzo Cerami. Vincenzo Cerami non ha bisogno di particolari presentazioni, è uno dei nomi fondamentali della sceneggiatura e del cinema italiano. Per l'occasione abbiamo scelto di spolverare un classico del cinema di Marco Bellocchio, che è Salto nel vuoto, film forse in parte dimenticato, comunque non so, poco tracciato attualmente nelle panoramiche del cinema italiano, e anche sul cinema di Bellocchio, in realtà film centrale della poetica di Bellocchio, grazie anche a una scrittura in punta di penna, come si può dire, di assoluto spessore, a cui contribuì per l'appunto Vincenzo Cerami, insieme allo stesso Bellocchio, addizionalmente al lavoro anche sui suoi scritti e a Piero Natoli. L'occasione quindi è piuttosto ghiotta. Un altro nome fondamentale del cinema italiano, che è Nicola Piovani, ha avuto più volte modo di lavorare in film che avessero anche la collaborazione e il lavoro di Cerami, e appunto cercheremo in qualche modo, dopo la proiezione del film, partendo dal film, ma non solo, di sviscerare in maniera più approfondita quello che è stato il lavoro di Cerami, quello che ha significato per la nostra piccola e a volte malmessa industria, e in che modo è doveroso oggi ricordarlo, che insegnamenti può dare anche a chi quel mestiere di sceneggiatore lo sta affrontando in questo momento. Raffaele, come sarà strutturata la giornata? La giornata è molto semplice, si inizia alle 16 con la proiezione in pellicola 75 mm di Salto nel vuoto. Al termine della proiezione intavoleremo un incontro con vari ospiti. In realtà il nome che posso fare già oggi è quello di Piovani, ma se ne aggiungeranno altri, e con tutti anche i partecipanti alla proiezione, nel senso che daremo la possibilità a chi ha voglia di intervenire, magari anche con domande o semplicemente con una propria riflessione, di intervenire, e andremo avanti indicativamente per un'ora più o meno dopo la proiezione, appunto a parlare di Cerami e del suo lavoro. Senti, un bilancio di questi incontri, insomma, stando ai primi due? Ma il bilancio è sicuramente positivo, nel senso che si vede che c'è voglia di riscoprire il nostro cinema, e magari scoprirlo anche da un'angolazione diversa. Noi siamo abituati a ragionare molto sul concetto di autore, partendo da il film lo firma come regista. In realtà cambiare angolazione, lavorare su sceneggiatori che tra l'altro non hanno mai imbracciato la macchina da presa, è sicuramente stimolante, e mi sembra che il pubblico che è venuto a partecipare ai primi due incontri abbia avuto voglia di confrontarsi con quel cinema in modo diverso, magari anche riscoprendo dei titoli che non sono noti, non sono conosciuti. Per esempio, nell'omaggio a Benvenuti De Bernardi abbiamo proiettato Amici per la pelle di Franco Rossi, che francamente credo sia un titolo abbastanza purtroppo dimenticato, un film molto piccolo, prezioso, del 55, che era tra l'altro la prima occasione per i due sceneggiatori di lavorare insieme. sembra quindi che ci sia voglia ancora di incontrare un cinema ancora recente, soprattutto c'era molto recente ancora, che però forse si sta perdendo. Poi non so, dimmi anche tu se concordi con una lettura di questo tipo, però mi sembra che si stia già perdendo un po' la connessione con questo tipo di cinema, ma che ci sia appunto la voglia di riconnettersi. Sì. Uso un verbo un po' brutto, ma no, è sicuramente così. Raffaele, ci lasci i riferimenti web per tutte le informazioni? Ma le informazioni più dettagliate si possono trovare sia sul sito della Casa del Cinema, che si trova su Google tranquillamente, sia sul sito di ANAC, che sono i due riferimenti principali, ovviamente sulle pagine Facebook ormai onnipresenti di entrambe le realtà, e poi andando in loco, chi forse chi cercasse in questi giorni alla Casa del Cinema, ci sarà anche il programma cartaceo dettagliato per avere un promemoria in più, diciamo così. Bene, allora ricordiamo il terzo e ultimo appuntamento con il ciclo Percorsi di Cinema, quella dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, a Roma, alla Casa del Cinema, il prossimo 5 dicembre. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Raffaele Meale. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, un abbraccio a te.